è dura al giorno d'oggi mantenere le proprie idee, anche a costo di non farsi più vedere. Tutti i ragazzini che si vogliono immedesimare dentro delle storie che possono solo immaginare. Vedo soltanto finzione nella canzone di un rapper che cerca di arrotondare lì per lì, finzione nelle parole di chi vuole sfondare, finzione di chi usa la sua musica per campare. Chi le storie le racconta non le vive, e se le inventa su due piedi dopo le trascrive su carta per farsi un passato dignitoso ed assomigliare in un presente ad un malavitoso. Siamo messi bene, tocche masse di ignoranti cercano dei soldi per comprarsi dei diamanti. Io per questa gente ho solo un brutto presentimento, dopo che infangano il nome di questa musica con l'argento. Siamo messi con la merda fino al collo, il nostro corpo ci sta a mollo tutto il giorno. Cerchiamo di scoprire il futuro da uno zingaro, eppure sguazziamo soltanto dentro le pozzanghere. Abbiamo 3 centimetri di fango sotto alle scarpe, abbiamo i gruppi di amici invasi dalle talpe. Non abbiamo più un punto di riferimento, ci sbattono come degli stracci al vento. Io vedo un trentenne, non ha un lavoro, eppure circondato dal lusso e vive nell'oro. Fa rap, ha venduto la sua anima ai soldi che lo tratteranno proprio come una macchina. Questo qui si sveglia a mezzogiorno, cazzo c'ha a che fare, si inventa 4 cazzate da raccontare. Droga, armi, pula, spirri e sesso, tutto quanto è storia pure di far testo. I soldi li ha, si compra pure uno strumentale, lo riadatta un po' e si sente anche realizzare. In poco tempo sta in sala pure per provare, e dopo poco tempo è pronto a registrare. Scala le classifiche, minchia soldi affalate, il cervello che si chiede perché di queste cazzate. L'anima non risponde perché ormai è venduta, accecata dai soldi non vede che è caduta. Siamo immersi nella merda fino al collo, il nostro corpo sta tutto il giorno a mollo. Cerchiamo di scoprire il futuro da uno zingaro, eppure sguazziamo dentro queste pozzanghere. Abbiamo 3 centimetri di fango sotto le scarpe, abbiamo i gruppi di amici invasi dalle talpe. Non abbiamo più un punto di riferimento, ci sbattono come degli stracci al vento. Dove è finito il vero rap italiano, sommerso dall'imitazione di un culto profano? Ehi, dov'è finita la metrica, dov'è finito lo stile? In un mondo di ragazzotti che disprezza il vinile, musica commerciale che non ha un'anima, ma che all'ascolto appare più che altro magica. Ehi, ha un solo scopo, attrarre la gente che essendo una massa di colpo se la sente. Oh, Dio mio, il nuovo singolo ed è subito una hit, sta nella top 10 mondiale. Minchia, con un click il CD originale si trova solo al negozio, e se vai Guarez nessuno chiude un occhio. E se ti fermi un attimo ci vuoi ragionare, non ha senso ciò che dice, parole a caso da ascoltare. Il vero rap non sta su YoMTV, si trova nell'underground, si trova qui. Siamo immersi nella merda fino al collo, il nostro rap sta tutto il giorno a mollo. Cerchiamo di scoprire il futuro da uno zingaro, eppure sforziamo soltanto dentro le pozzanghere. Abbiamo 3 centimetri di fango sotto alle scarpe, abbiamo i gruppi di amici invasi dalle talpe. Ehi, non abbiamo più punto di riferimento, ci sbattono come degli stracci al vento.